Buonasera a tutti, inizia Zardins Magnetics, il programma che in maniera straordinaria, credo, oggi inizia poco prima delle ore 20, comunque andremo avanti fino alle ore 21:30. Questo programma viene condotto dall'Assemblea Permanente contro il Carcere e la Repressione di Trieste e Friuli, ma andiamo con quella che è la sigla di questa trasmissione. Bene, questa era la sigla di apertura di questa trasmissione che è Zardins Magnetics, che va in onda ogni giovedì in diretta radiofonica qui dai studi di Radio Onde Furlane da Udine, e andremo avanti fino alle ore 21:30. Ora andiamo all'ascolto di questo album, anzi uno split, sono due le band all'interno di questo 12 pollici, ovvero i Georgetown Kids, che è una band della zona di Reggio Emilia, e questi i Gioia, che ora andremo ad ascoltare, che sono di Rovereto, zona di Trento. Bene, ascoltiamoci i Gioia, album uscito nel 2018.

che risposta. Non hai ancora capito che vale meno di una merda. Bene, quindi stavamo ascoltando i Gioia, band come detto della zona di Rovereto in Trentino, e da un loro split, uno split 12 pollici che hanno condiviso assieme ad una band della zona di Reggio Emilia, ovvero i Johnstown Kids. Questo è LP uscito nel 2018. Bene, ora andiamo invece all'ascolto di questa band croata, esattamente di Pola. Loro sono i Pass Matters. Sì, bentornate, bentornati all'ascolto di Zardins Magnetics. Appunto, bentornati a chi ci ascolta in diretta e anche a chi ci ascolterà domani, cioè venerdì, dalle frequenze di radiazione. Allora, oggi abbiamo pensato così di parlare un po' di 25 aprile, riguardo Udine sia riguardo Trieste. Per Trieste appunto ci sarà il nostro corrispondente da Trieste, appunto, che ci racconterà quello che è successo. E niente, qui a Udine così abbiamo scelto, come anarchiche e anarchici, di non partecipare alla manifestazione, diciamo, istituzionale, ma di fare una presenza al Monumento alla Resistenza, che è in piazzale 26 luglio, che è appunto il punto di approdo, diciamo, del corteo. una presenza con uno striscione per Alfredo e poi abbiamo distribuito dei volantini, e un volantino che andremo a leggervi, e poi abbiamo anche così allestito una piccola, un estratto di una mostra sul 41 bis e l'ergastolo e l'ostatività e le carceri speciali che avevamo proposto insomma in diverse altre situazioni di piazza. E allora una cosa che colpiva, almeno a me ha colpito, beh, a parte il delirio di tricolori, ne abbiamo già parlato, che si confondono poi adesso i tricolori del, l'abuso di tricolori per gli alpini con quelli del 25 aprile, e c'era un casino di gente in corteo, hanno detto 3.000 persone, comunque si vedeva che c'erano più persone di altri anni insomma, e probabilmente questo è l'effetto delle elezioni, appunto questo nuovo sindaco, e quindi diciamo che tutti la Santa Messa del 25 aprile, insomma le persone che frequentano la Santa Messa solamente il 25 dell'antifascismo, solo il 25 aprile, si sono esposte in piazza. E vabbè, insomma, nella presentazione diciamo della puntata di oggi abbiamo parlato di antifascismo fuori tempo massimo, per dire il tono del discorso di De Toni, che è il sindaco di Udine, è di questo tipo. Vado a leggere proprio tre righe che sono significative. Una comunità di persone libere, noi saremmo, che vivono in una democrazia con una delle costituzioni più belle del mondo. Nelle difficoltà e anche nelle contraddizioni delle democrazie contemporanee, nella complessità e nelle ingiustizie del sistema economico moderno, ma che possono liberamente decidere del proprio futuro e di se stesse. Quindi questa è la retorica, non so come nemmeno come definirla, poi insomma, a parte tutti i discorsi, gli altri discorsi così più storici sulla resistenza storica, sui partigiani, ma insomma, che danno comunque sempre un colpo alla botte, un colpo al cerchio, l'osoppo, che rappresenta l'essenza del cristianesimo, sì, robe fuori dalle grazie. Comunque, questo era il tono, diciamo, inquietante dal nostro punto di vista dei discorsi ufficiali. E invece noi appunto abbiamo fatto questo striscione: vita, forza e amore per Alfredo, combattente anarchico per la libertà di tutte e tutti. Tra l'altro, insomma, parecchie persone si sono anche comunque fermate a parlare di questo. E abbiamo proposto questo volantino che magari adesso vi leggiamo. Oggi vorremmo anche noi ricordare un evento bello, un evento importante. Oggi si commemora la liberazione dal fascismo e dal nazismo. Si commemora cioè il culmine di un ciclo di lotte e anche di scontri militari e alla fine di un contributo strategico, quello dei partigiani e delle partigiane, iniziate ufficialmente 20 mesi prima, l'8 settembre 1943, la conclusione della guerra e il trionfo di pace e democrazia. Una ricostruzione, una retorica che le anarchiche e gli anarchici hanno sempre cercato di smontare con le parole e anche con le azioni, rievocando alla memoria i tentativi, Lucetti, Schirru, di colpire a morte Mussolini, anche quando il regime era al massimo del consenso, e inoltre, per ragioni di Stato, azioni di questo tipo erano biasimate anche da una parte degli oppositori al regime. riportando a mente l'indomita guerriglia dei Maquis sotto il franchismo, così come la seria e determinata lotta clandestina e internazionalista di gruppi come Primero de Mayo, De Majo, Mil, eccetera, negli anni 60 e 70. Una retorica combattuta da anarchici, ma non solo, da tutte e da tutti coloro che si richiamano a una tradizione che non è adorazione delle ceneri, ma custodia di un fuoco che brucia ancora. Alla pace subentrò ben presto la pacificazione forzata. Alla fame e alla miseria, il consumismo e l'alienazione diffusa, fino ad arrivare al trauma pandemico, con il terrore e i coprifuoco imposti in spregio a ogni razionalità critica. Ma già da qualche anno il processo di digitalizzazione era sopravvenuto, sfalsando la percezione della realtà a un livello tale da privare gli sfruttati e le sfruttate della coscienza diretta della lotta di classe, alla quale è subentrato uno stato di isolamento e rottura della solidarietà. Il progresso tecnico e scientifico andrà sempre a beneficio di una sola classe, è bene ricordarlo, quella degli inclusi nel processo di liberazione come stato di disponibilità di diritti, definito dall'ideologia neoliberista, di coloro che vivono la felicità artificiale del capitale a spese della schiavitù degli esclusi. Gli investimenti nel mondo dell'intelligenza artificiale si sono moltiplicati di anno in anno e l'obiettivo dichiarato è la creazione di computer neuromorfici nell'illusione di scalfire la complessità dei sistemi studiati usando la potenza di calcolo degli elaboratori, le entità informatiche, così come quelle della Geno Industria e di tutte le altre tecnologie convergenti, si rapportano alla realtà secondo un criterio di rigoroso efficientismo, riducendola a scambio di flussi, sempre codificabili e quindi manipolabili. Il capitalismo assoggetta gli sfruttati e le sfruttate per nutrire questa mega macchina. La sua utopia è quella di una vita, se non immortale, amortale. Una condanna per tutti gli schiavi, un prolungamento crudele della durata di un'agonia, di una vita senza libertà, una dimensione carceraria generalizzata. Attraverso il suo sciopero della fame contro 41 bis, ergastolo e ostatività, interrotto qualche giorno fa dopo 181 giorni, la lotta del compagno Alfredo Cospito ha marcato in maniera indelebile il percorso delle lotte, ponendo la questione del carcere duro all'interno della società, ma non solo. Portando l'attenzione pubblica sulla sua intera vicenda e a disposizione di un vastissimo pubblico il suo percorso di ecologista radicale e obiettore totale alla leva militare, oltre che anarchico d'azione, un percorso fatto di una lotta multiforme e senza preconcetti verso l'uso della violenza. Il battersi per una vita degna di essere vissuta e il rifiuto della riduzione di un essere umano alla sussistenza materiale deprivata di ogni stimolo esterno. Le prospettive di questa lotta sono nelle mani di tutte e di tutti noi che siamo fuori. L'azione per la quale è stato condannato, l'unica che ha rivendicato personalmente in tribunale, pagandone le conseguenze, è stata quella di colpire fisicamente un funzionario responsabile dello sviluppo di progetti di ricerca nucleare. Si tratta di ricerche e attività prettamente biocide, nemiche mortali dell'intero vivente. Tutte e tutti noi, sfruttati e sfruttate, dobbiamo aver chiaro che chi vede nel nucleare la soluzione alla crisi ecologica, è un nemico dichiarato, è qualcuno che vuole prospettarci un mondo infernale. Nell'anno 2023 è prevista l'entrata in funzione di un impianto per l'accumulazione delle scorie nucleari delle 5 centrali atomiche finlandesi attive nelle catacombe di granito di Onkalo. Si tratta della prima volta che si ha l'ardire di concepire e realizzare un deposito permanente di scorie radioattive. La durata, la vita, prevista da chi ha progettato quell'impianto con l'illusione di renderlo immune da cataclismi, glaciazioni e simili, è stata quantificata in 100.000 anni. Nessuno è in grado di ipotizzare quali lingue sconosciute saranno parlate dall'umanità, sempre che in quel futuro remoto essa non sia già scomparsa da millenni. Eppure toccherà proprio a questa civiltà tecnologica trasmettere ai posteri un'eredità fatta di tonnellate di barre radioattive, esauste e assassine. Libertà per Alfredo. A fianco di Alfredo, Anna, Juan, Ivan, Monica, Francisco, di tutti i ribelli. Solidarietà ai prigionieri in lotta, ad Alessio, Claudio, Domenico. Non smetteremo di lottare per la libertà. Alcune anarchiche e alcuni anarchici. La band che stiamo ascoltando sono gli Infezione, band di Modena che è esistita tra la metà degli anni 80, insomma fino ai primi anni 90. Questo è il loro album Religione Oppio dei Popoli, uscito nel 1991. Thank you. 8:32 di giovedì 27 aprile, e un saluto anche da parte mia a tutte e tutti voi che siete in ascolto, agli ascoltatori di Radio De Furlane che ci ospita. Questa, come è già stato detto, è Zardins Magnetics, che va in onda tutti i giovedì in diretta, è ascoltabile anche in streaming. E poi, per chi non può sintonizzarsi in diretta, c'è anche il podcast reperibile sui nostri canali soliti. Dato che abbiamo sviluppato il tema, così, il tema non fa ridere, ma insomma l'argomento della libertà nella declinazione, insomma, che abbiamo scelto, come l'ha messa alla prova, insomma, questa libertà il compagno Alfredo Cospito, diamo ancora un aggiornamento che è uscito oggi 27 aprile sul suo stato di salute dopo l'interruzione dello sciopero della fame. Alfredo sta ricominciando a mangiare, anche se più lentamente di quanto vorrebbe. Poco a poco sta reintroducendo anche pasti. Scusate, sta reintroducendo pasta e alimenti solidi, seguendo i suggerimenti della dietologa. I valori complessivi sono abbastanza buoni, sembra esserci un leggero miglioramento nelle condizioni del piede, cui aveva perso sensibilità. Ma per il momento, secondo i medici, non è possibile azzardare una prognosi. In ogni caso, cammina un po' meglio. Si trova ancora ricoverato al reparto penitenziario del San Paolo a Milano, ansioso di lasciare l'ospedale, visto che al momento non può usufruire nemmeno dell'ora d'aria e in sostanza non esce mai dalla stanza cella, priva addirittura di luce naturale. I medici comunque dicono che dovrebbe rimanervi almeno un'altra settimana. L'umore è buono, insomma, si sta riprendendo. Continuerà a ricevere le visite dell'avvocato e del medico di fiducia, quindi seguiranno aggiornamenti. Non riceve quasi mai posta, ma invitiamo tutti a subissare ugualmente i censurini di lettere e telegrammi, che si guadagnino il loro sporco stipendio. Ricordiamo che per scrivergli vale l'indirizzo di Opera, anche se si trova in ospedale. Quindi l'indirizzo è carcere di Opera, via Camporgnago 40, 20141 Milano. Lo ripetiamo, carcere di Opera, via Camporgnago 40, 20141 Milano, per scrivere telegrammi e quant'altro a Alfredo Cospito, detenuto in 41 bis ancora a Opera. E stiamo ascoltando questa band ligure. Specchio stabile dell'impossibilità di raggiungerlo. Sempre più di infinità di niente, senza più riferimenti, senza più pensieri, senza vita. Confuso e ferito, cerco con lo sguardo, ma l'assenza del suolo, togli il senso alla caduta, quindi il compito umiliato, mi rassegno completo, la potenza del nulla. Non si entra in un mondo migliore senza effrazione. Questo è il titolo di un contributo dalla Sicilia che adesso vi leggerò. Qualche giorno fa, in occasione della festa della polizia, il ministro Piantedosi ha sentito l'esigenza di porgere alle guardie i suoi più sinceri ringraziamenti per il ruolo svolto nella salvaguardia dell'ordine interno, per essersi dimostrate capaci di reggere l'urto congiunto della crisi economica e della guerra. Ci sono episodi che raccontano un'epoca e questo è uno di quelli. Al governo, determinatissimo nel proseguire l'aggressione all'ecosistema e alle condizioni di vita della parte più povera della popolazione, non manca la lucidità per saperlo e a quanto pare neppure la faccia tosta per ammetterlo. Senza manganello, senza gas lacrimogeni, non saprebbero davvero come fare. Che si tratti di abrogare il reddito di cittadinanza o di imporre a territori recalcitranti grandi opere come il ponte sullo stretto, il monopolio della violenza legittima incombe spettrale sulle teste di tutte e tutti, minacciando di spaccare quelle più calde come un monito per le altre. Ma attenzione! Non c'è provvedimento, dal decreto anti-rave al pugno duro contro i militanti ambientalisti, dalla conferma del 41 bis ad Alfredo Cospito all'omissione di soccorso verso chi affoga in mare, che non affondi le sue radici in un territorio e in un abisso etico ben più vasto di quello delimitato dal governo Meloni. Se si prova a pensare alle forze di opposizione, al Partito Democratico, a Minniti e a Leonardo, a Renzi e Calenda, ai 5 Stelle che fecero il nome di Cingolani per il Ministero della Transizione Ecologica, alla sinistra favorevole al Green Pass, non si può non stendere un velo impietoso e percepirsi in un rapporto di medesima radicale inimicizia. E lo stesso vale per ogni esternazione proveniente da un retroterra culturale autoritario, che si tratti della pedagogia dell'umiliazione, caldeggiata dal ministro dell'istruzione, o delle lezioni di vita sulla necessità di rendersi utili nel proprio paese, invece che migrare con figli a carico, impartite dal ministro dell'interno, a chi ha incontrato il volto assassino e insensibile dello Stato. L'opera di demolizione del nostro sguardo e della nostra coscienza, singolari e comuni, era già evidentemente a buon punto, e i fascisti al governo ne sono l'espressione più che la causa. Ed è per questo che occorre tenere i propri passi il più lontano possibile dalla strettoia dell'antifascismo istituzionale, privo com'è di strumenti per riconoscere e combattere le forme più totalitarie dell'oppressione odierna, complice, come si rivela, di tutto ciò che invece l'alimenta. I fogli di via, i DASPO per gli indesiderabili, le richieste e le concessioni di provvedimenti preventivi come la sorveglianza speciale. Non sono certo una recente invenzione, se è vero che misure simili sono esistite tanto sotto il governo di Crispi che sotto quello di Mussolini, traghettando senza impedimenti dal codice Rocco al nostro presente. Al netto della retorica democratica, infatti, il cuore del loro mondo senza cuore resta o diventa sempre più il carcere. Quando la repressione preventiva e il manganello non bastano, i custodi del dominio ricorrono a sbarre, grate e filo spinato. E se i detenuti si ribellano, come a Modena o a Santa Maria Capua Vetere, un esercito di salariati al soldo dei padroni dell'informazione si premurerà di spiegare che torture e pestaggi, fino al ripristino della pena di morte, in fondo se le sono cercate. A questo occorre aggiungere l'estrema disumana afflittività di un regime detentivo quale il 41 bis, contro cui il nostro compagno Alfredo si batte da mesi col più intenso coraggio e la massima determinazione, con una lotta ad oltranza che non smette di infrangersi contro il muro di gomma della brutalità burocratica, ma neppure smette di accendere scintille nei nostri cuori, spronandoli ad insorgere. È dunque ora di domandarsi se ad animarci è un rapporto col piacere e con i nostri desideri recuperabili dal sistema o il rifiuto radicale della trita e triste normalità in cui la noia o la fatica di sopravvivere si accompagna allo sterminio. Vivremo, o è già oggi, in un mondo in cui polizia e pulizia saranno sempre più sinonimi, in cui i cimiteri chiamati frontiere saranno i marciapiedi da cui umani robotizzati, spazzini, poliziotti o volontari di ogni Caritas, rimuoveranno l'umanità di scarto che vi si accalca. Saranno i nostri amici e le nostre amiche, le amiche e gli amici che non abbiamo potuto avere, saranno l'amicizia che non siamo potuti essere. Cosa possiamo opporre a tutto questo? Noi pensiamo davvero la follia di una rivolta che unisca ravers e pecorai clandestini, donne migranti e carcerati di ogni ruolo sociale, poveri e poetesse, arrabbiati, streghe e mistici. La sentiamo sorgere da certe nostre ferite e da tutti gli istanti di gioia assaporata e vissuta. Pensiamo davvero che da prodotti di scarto non riciclabile possa rinascere il sogno più bello e profondo generato dall'umanità lungo tutta la storia della sua oppressione, quello di un mondo senza capi né padroni, in cui cura reciproca, festa, amore e libertà possano suonare insieme. È l'unico ardore che ci tiene in vita nel deserto gelido degli algoritmi, l'arma più tenace contro i signori degli eserciti e contro la solitudine immensa e spaventosa a cui ogni giorno di più ci consegna il matrimonio tra il regno dell'economia e quello del digitale. A patto di infrangere gli schermi che ci isolano e ci separano, pensiamo possibile riconoscerci in quanto oppressi, in quanto umani, perché in grado di riconoscerci. Sta già in tutte le nostre cellule la coscienza che basta a far saltare il loro mondo, i loro giorni cattivi, le loro passioni tristi. Siamo umani, quindi ci rivoltiamo contro tutte le galere. fai tu con le tue mani, già delusa, bambina, già delusa. Pensavi per davvero che era come volevi tu, già delusa. E adesso paghi tutto che il futuro lo fai tu con le tue mani, già delusa, bambina, già delusa. Pensavi per davvero che era come volevi tu, già delusa. E adesso stiamo ascoltando questa band piemontese dell'area di Torino. Loro sono i Cose Perse, band che è esistita nel primo decennio degli anni di questo secolo, del 2000, e comunque CD, loro album datato 2006, Cose Perse. Di nuovo in voce per ricordarvi che domani è il 28 aprile, allora, ovvero insomma il 28 aprile è prevista a Decimo Mannu, cioè in Sardegna, siccome domani 28 aprile in Sardegna si ricordano i cosiddetti Vespri del 1794. Quindi è stata indetta una manifestazione, un corteo verso la base aerea NATO di Decimo Mannu. Sarebbe Die dessa Sardegna il giorno 28 aprile. L'appuntamento è fissato alle ore 14 a Villa Sor, poi il corteo si muoverà verso la base aerea. È stata fatta una conferenza stampa e nello striscione esposto stava scritto Gerrausu in pari po una Sardegna libera, cioè combattiamo insieme per una Sardegna libera. Nel mirino c'erano appunto queste esercitazioni che si stanno susseguendo, da mare aperto a Noble Jump, a Joint Stars. Non è certo nuova l'occupazione del territorio sardo da parte degli eserciti della NATO, comunque seguito allo scoppio del conflitto in Ucraina, l'attività di addestramento bellico sull'isola insomma si è notevolmente intensificata. Per questa primavera sono state pianificate 3 esercitazioni ed è, insomma, chiunque degli abitanti può osservare un enorme insomma traffico sia automobilistico che pesante, camion, insomma trasporti di tutto quello che occorre per fare queste manovre, anche al di fuori delle aree stabilmente occupate dai militari. Non è esagerato parlare di una vera e propria invasione. Il binomio guerra energia, spiegano gli attivisti nella conferenza stampa, si ripercuote ulteriormente sulla Sardegna, perché quello che insomma dove il suolo non è occupato da esercitazioni, quello che rimane è occupato da strutture di approvvigionamento energetico sia carbon fossile sia eolico, ci sono delle, insomma, c'è questa problematica, insomma, delle pale eoliche, delle turbine, insomma, delle strutture per assorbire l'energia, insomma, dal vento, che sono molto invasive, molto deturpano, insomma, oltre che il paesaggio, insomma, modificano l'ambiente naturale dove le persone vivono, e sono previsti notevoli ampliamenti negli anni a seguire. In sintesi, l'imposizione di forme di economia come quella bellica, altamente inquinanti, generano pesanti ricadute, quali spopolamento, malattie, producono solo pochissimi posti di lavoro, anche volendo considerare questo aspetto, e nessuna possibilità di sviluppo. Per questo, nel giorno simbolo della nostra autodeterminazione, saremo a decimo manu per lottare contro questa idea di Sardegna e ribadire che vogliamo vivere in un'isola diversa. Per chi vuole aggiornamenti, insomma, collegamenti, filmati, eccetera, eccetera, esiste un canale Telegram contro le basi, e potete, insomma, sì, collegarvi, seguire, ci sono tutti gli aggiornamenti. Abbiamo anche notizia di un'altra iniziativa interessante, importante, che riguarda la Liguria. Si tratta della 21esima edizione di Imbricchiamoci, questa iniziativa montana contro le devastazioni ambientali, che si svolgerà dal 29 aprile al 1 maggio. Allora, quest'anno, appunto, questa Imbricchiamoci attraverserà in Liguria una vasta area che è minacciata da progetti distruttivi di tipo estrattivo, appunto per l'estrazione mineraria, e cioè le Valli Graveglia, Petronio, Gromolo e Vara. E appunto queste sono valli che hanno nel sottosuolo, insomma, sono ricche di oro, rame, argento, zinco, manganese, alluminio, cobalto, eccetera, che sono tutti terre rare, diciamo, metalli rari, che sono utili per le tecnologie smart e la mobilità elettrica, ma anche per la realizzazione delle strumentazioni necessarie per fare la guerra. E quindi appunto queste terre sono solleticano gli appetiti del sistema industriale capitalista, e la creazione di queste miniere chiaramente è un risultato devastante da ogni punto di vista per queste terre, per tutte le terre, e quindi appunto c'è questa così mega passeggiata, insomma, di qualche giorno, di tre giorni su questi territori. E per chi ha la possibilità magari di partecipare, c'è una mail a cui scrivere per avere dettagli: fuoricontrollo@inventati.org. Stiamo ascoltando in sottofondo questa band storica del punk hardcore inglese, ovvero i Subhumans, band che si è nata nel 1980 e tuttora esistente, anche se c'è stato un periodo a fine anni 80, diciamo, di scioglimento della band, ma poi è ripreso negli anni 90. E noi ci stiamo ascoltando un loro 7 pollici che si chiama Religious War. Subhumans. Sometimes you end up Io sono qui. Sì, allora adesso ci dovrebbe essere in linea un compagno da Trieste che ci racconta un po' del 25 aprile là, di cosa è successo. Ci sei? Sì. Ciao. Sì, sì, ciao. Ciao, ciao, ciao. Ciao. Beh, un po' di cose le hanno dette anche, diciamo, così alla radio, insomma, alla radio, la RAI proprio, no? Del discorso del numero chiuso della risiera, queste cose qua. Però c'è stato anche un pregresso, no? Prima della risiera. Ma sì, praticamente le cose sono, cioè vanno un po', come dire, le cose sono, vanno un po' contestualizzate, nel senso sì. Che praticamente il collettivo Bugliana aveva lanciato un conteo da circa una settimana, due settimane prima. Al 25 aprile aveva lanciato un corteo antifascista da Campo San Giacomo fino alla Risiera. Sì. E questo corteo è stato vietato dalla questura con delle motivazioni assurde, allucinanti, insomma, che non stavano in cielo né in terra, safety, security, insomma. Sì, le solite cose, no? Che tirano fuori. Sì, diciamo che a Trieste ultimamente si stanno sbizzarrendo con una serie di divieti verso tutte le realtà, insomma, non proprio allineate, che loro ritengono fuori controllo, comunque insomma hanno deciso di blindare la città dopo le mobilitazioni grosse, no? Green Pass. Hanno questa linea, la questura, che poi insomma è una linea anche nazionale, non è solo una cosa triestina, però qua a Trieste insomma ci calcano un po' la mano, un po' perché hanno preso paura di quelle grosse mobilitazioni, un po' perché c'è questo clima nazionale che glielo consente, un po' perché le realtà si sono indebolite e quindi si sentono più forti in questo momento a fare un po' di prevenzione, un po' di stress, un po' di pressione verso tutte le realtà che insomma continuano a muoversi. E questa volta qua nel mirino è finito questo corteo lanciato da Bugliana con un divieto, insomma, safety, security, cioè, praticamente in sostanza quello che si percepiva era che loro temessero la possibilità che un bel gruppo di persone arrivasse in Riviera e che contestasse Di Piazza, Federica, insomma che contestasse le autorità che si arrogano questa titolarità di parlare di antifascismo, insomma in realtà sono dei fascisti. Dei fascisti conclamati, parlano di antifascismo. Questa cosa qua è una contraddizione insomma palese e questa contestazione poteva essere anche forte come è stata in passato, quindi c'era questo timore da parte loro e hanno vietato questo corteo e in più hanno fatto una specie di cambio radicale nell'organizzazione delle celebrazioni del 25 aprile senza comunicare tra l'altro al comitato che gestisce l'aspetto culturale della Risiera, che quindi è anche insomma è in gran parte dietro anche le celebrazioni del 25 aprile, composto da vari soggetti così ampi, CGL mi pare, sindacati confederali, così, e hanno stravolto un po' con una sorta di con un numero chiuso all'interno di circa 600 persone per norme di sicurezza, ma una cosa così di colpo improvvisata e a tutti è sembrata una provocazione, una sorta di picca, un dispetto o come minimo una cosa male organizzata, però il fatto che cascasse così casualmente post-Covid, quindi nel senso che la gente era calcata anche quando c'era il Covid, lì, nel senso a parte il 2020, quindi un'ingiustificata da anche all'osservatore così smaliziato, cioè ingiustificata, sì. E così improvvisa, senza avviso, con una serie di dichiarazioni, penso che gli ascoltatori un po' le abbiano sentite, delle autorità provocatorie sulle autorità governative e da parte del Presidente del Senato, in particolare la Russa, sì. Sulla resistenza, sembrava una provocazione, ma io non escludo che le possa anche essere, che a qualche dirigente comunale abbia voluto un po' fare un dispetto alla celebrazione della Riviera, così improvvisando questa restrizione, sì. Sì, questa restrizione della gente che non c'è mai stata, hanno spostato anche il palco da dove parlano le autorità, così un cambio senza nessun avviso. Ovviamente la gente lì si è incazzata, tanto che è dovuto intervenire lo stesso Di Piazza, una esponente del Partito Democratico, Famulari, per fare un po' d'arbitro, per far passare la gente, ecco. Quindi c'erano queste due situazioni che si sono incrociate. Sì. Il corteo di Buriana è stato bloccato praticamente in una via limitrofa alla Riviera con un cordone di polizia, e davanti alla Riviera sono stati collocati due blindati con una specie di checkpoint, e alla fine sotto anche al cordone di polizia c'era una specie di checkpoint, un cordone più morbido di Dios poliziotti, cioè praticamente uno per arrivare in Riviera doveva superare tre cordoni di polizia, tipo Palestina, infatti, è una roba impressionante. Hanno militarizzato tutto, alla fine diciamo che c'è stato qualche parapiglio della polizia, soprattutto nella parte finale, per qualche celerino con i nervi tesi, mm-hmm. che ha reagito male a una cosa abbastanza giocosa, per cui la gente era bloccata in questo prato condominiale, giocava con un pallone e a un certo punto sto pallone è volato un po' troppo e sono partite delle manganellate, e insomma dopo, a quel punto lì, la tensione era forte, e le autorità se ne erano già andate, quindi si hanno mollato. Poi hanno mollato il cordone e il corteo è defluito fino davanti alla Riviera, e lì c'è stata un'ulteriore scena veramente così tra il ridicolo e il macabro, nel senso che l'ingresso della Riviera è stata bloccata temporaneamente da uno schieramento di celerini con i manganelli in mano, cioè nel senso una roba, sì. Una visione un po' impressionante, considerando che quello era un campo di sterminio. Questi si sono collocati davanti con tipo quasi a cercare lo scontro davanti alla Riviera, insomma una roba pesante, e dopo un po' di fronteggiamenti anche lì, e questi qua se ne sono, i responsabili di Piazza della Digos li hanno fatti retrocedere, mm-hmm. e così alla fine sì, si è entrati in Riviera, ecco, c'era il coro partigiano in quel momento là che cantava, ma insomma comunque la mattinata è stata degna di nota, perché erano scene che non si sono mai viste, o almeno insomma da tempo non si vedevano scene simili. Io che insomma vado da abbastanza tempo alla manifestazione del 25 aprile dell'Antidaglia, non avevo mai visto una cosa del genere, cioè le contestazioni di piazza o ai vari esponenti della destra, insomma ci sono state, ma così tutto questo spettacolo poliziesco non si era mai visto. È un segno dei tempi abbastanza pesante, insomma. Paradigmatico, però da un lato il corteo comunque era partecipato, no? È stato partecipato. Sì, è stato partecipato al corteo, poi era un semicorteo in realtà, nel senso che si è camminato sui marciapiedi. Sì, una passeggiata antifascista, diciamo, ma comunque, sì. E poi se la gente si è incazzata e ha voluto entrare alla fine, bene, sì, mi pare. Bene, sì, nel senso che cioè, c'è stata una giornata positiva, una reattività, c'è stata una risposta. Temevo che la cosa addirittura si potesse essere abortita a San Giacomo perché non eravamo tanti, ma poi insomma si è raggruppata gente e salita anche la rabbia, la determinazione, insomma è stata una giornata positiva che ha saputo fronteggiare, ecco, anche l'ottusità delle autorità poliziesche, non si sono fatti una bella figura. Poi è chiaro che insomma chiaramente insomma c'è chi in questo momento fa un po' il lupo travestito d'agnello, sì. Cioè la sinistra borghese fa un po' la scandalizzata in questo periodo, no? Cioè con Meloni, con Di Piazza, l'autorità di Deuta, insomma in realtà il PD e i suoi apparati, i suoi addentellati sono pienamente corresponsabili di questo clima. Beh, certo. Qua. Non sto facendo assolutamente nessun discorso da scandalo, ci sono i fascisti al governo, quelli di prima facevano uguale, mi ricordo come avevano blindato Piazza Unità i giorni in cui si protestava contro l'obbligo vaccinale, sì, le scene sono le stesse, quindi non c'è nulla di nuovo se non un crescendo delle, una continuità e una crescita, un aggravarsi, perché insomma siamo in guerra, siamo in una condizione di guerra, innanzitutto l'Italia sta inviando armi sul fronte Ucraina e parte insomma del blocco NATO, anzi oggi ieri si è svolta una conferenza sulla ricostruzione degli avvoltoi insomma di Confindustria, sì. che vogliono beccarsi la fetta dei profitti sulle macerie dell'Ucraina, e in questa guerra ha dei riflessi sul fronte interno, devono blindare la società e devono gestire la crisi sulle spalle dei proletari. E da queste frequenze avete ben descriviamo sempre bene l'aspetto del carcere, che è uno degli aspetti di questa guerra di irrigimentazione sul fronte interno. Abbiamo visto come abbiano tentato di ammazzare Cospito e si accaniscano verso tutti i detenuti resistenti, quindi insomma questo è il clima che vogliono sul fronte interno di pacificazione, insomma l'importante è che almeno per un minimo si riesca a romperlo, ecco. Sì. E quindi la giornata 25 aprile comunque è stata positiva secondo me. Ok, grazie allora della accurata descrizione e grazie a voi dello spazio e alla prossima, ci sentiamo, sì. ciao, un saluto a tutti, ciao. Yeah. E stiamo ascoltando in sottofondo questa band finlandese da una loro tape, e loro sono i Tamper SS. Incolpavo qualsiasi cosa, chiunque al mondo, per tutte le pene, tutte le sofferenze e le viltà orrende che capitavano a me e che vedevo capitare alla mia gente. Davo la colpa a tutti, davo la colpa ai bianchi, colpa alla società, colpa a Dio. Non avevo risposte perché mi facevo le domande sbagliate. Tu devi farti la domanda giusta. E qual è? Tutto quello che hai fatto ti ha reso la vita migliore. Bene, sfumo un po', ho fatto ripartire questa band piemontese in sottofondo, loro sono i Cose Perse, da un loro album datato 2008, anzi il loro, mi sembra, ultima uscita, la band che si era formata all'inizio degli anni 2000. E tutto questo perché siamo giunti al termine di questa trasmissione, mancano pochi minuti, che è Zardins Magnetics, ma poi insomma così anche in sospeso volevo ripresentare magari meglio i tre brani ultimi che abbiamo ascoltato, che sono i Tamper SS, band diciamo storica degli inizi del punk hardcore degli anni 80 in Finlandia. Non è altro, questo set era un 7 pollici, comunque sono 6 i brani, comunque è un 7 pollici uscito negli anni 90 perché è stata ristampata su vinile una loro demo tape che era stata registrata insomma alla fine dell'82 inizio 83, che ovviamente era diventata introvabile, anzi credo una cosa proprio inverosimile. E grazie all'interessamento di questa etichetta statunitense il disco è stato ristampato, tant'è che credo almeno altre 5-6 volte, perché andava subito esaurita la tiratura. Quindi vabbè, tutto qua, ecco, Tamper SS. Non vi dico il titolo di questo 7 pollici perché credo sia impossibile, da parte mia è scritto in finlandese, comunque chi se ne frega. Noi ora siamo, come detto, giunti al termine. Vi ricordo che noi di questa trasmissione, che è Zardins Magnetics, va in onda ogni giovedì in diretta fino alle ore 21:30, dalle ore 20, e viene condotta grazie all'Assemblea Permanente contro il Carcere e la Repressione di Trieste e Friuli. E vi ricordo anche i nostri contatti, se volete scriverci in forma elettronica. La nostra mail è liberetutti@autistiche.org, ripeto, liberetutti@autistiche.org, oppure potete scriverci nel consueto modo cartaceo alla vecchia maniera, e intestando ad Associazione Senza Sbarre, casella postale 129 Trieste Centro 34121. Ripeto, 34121 è il codice di avviamento postale di Trieste Centro, Associazione Senza Sbarre, casella postale 129. Inoltre potete riascoltare questa trasmissione, ma anche quelle delle volte scorse, andando sul podcast zardinsmagneticsradio.noblogs.org. ripeto, zardinsmagneticsradio.noblogs.org. bene, diciamo che è tutto, ci risentiamo il prossimo giovedì. Salutiamo anche chi ci ascolterà domani, venerdì, sulla web radio Radiazione dalle ore 17. Ciao a tutti, vi lascio con un ultimo brano da questa band inglese dalla zona di Londra. Loro sono i Red Stars e questo è una loro ultima uscita su un 7 pollici datata 2019, uno split assieme ai Subhumans. Bene, ciao a tutti e vi lascio con i Red Stars.